Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ho visto su YouTube il video del concerto interrotto al Pantheon di Roma e pur essendo ormai corazzata contro ogni scandalo e figuraccia della politica e della pubblica amministrazione, sono rimasta colpita da questo episodio che sembra solo in apparenza di gravità minore. Prima di tutto, rivela abissi di inefficienza da parte di una moltitudine di persone. Quando si organizza una manifestazione in un luogo custodito, sia gli organizzatori che coloro che concedono lo spazio devono innanzitutto concordare i tempi, mettendosi d'accordo preventivamente con i custodi preposti o pagando una guardia giurata che li sostituisca, o magari rivedendo il programma della manifestazione. Di tutto questo lavoro organizzativo non c'era palesemente traccia. La protervia con cui uno, due o tre addetti alla sorveglianza hanno scacciato gli orchestrali e gli spettatori la dice lunga sulla loro intelligenza e sulla dedizione al lavoro di questi ultimi, ma anche sulla capacità dei loro dirigenti. Infine, conseguenza ancora più grave, l'episodio pubblicizzato su tutto il web costituisce un potente fattore di promozione al contrario del turismo a Roma e in Italia. Associare Vivaldi, Roma, il Pantheon e una scena di prepotenza gratuita e ottusa non crea certo nei potenziali turisti emozioni che li conducano a Roma. Ci siamo mai chiesti perché 30 anni fa l'Italia era la prima nazione al mondo per flussi turistici e adesso con tutti i suoi tesori d'arte è appena la quinta? Forse qualche sondaggio fatto all'estero potrebbe far emergere che la strafottenza degli italiani in qualche modo ha giocato e gioca un ruolo in questa debacle turistica. Chissà se prima o poi capiremo che il mondo è grande e noi non ne siamo al centro. Laura. Cara Laura, c'è poco da aggiungere a quello che lei dice, se non mi permetta una piccola riflessione sul rispetto delle regole. Quella del Pantheon è certamente una dimostrazione di disorganizzazione, ma anche di rigida e burocratica applicazione delle regole. In questo paese ci sarebbe bisogno di un po' meno regole e un po' più di buonsenso, anche per non frenare quello spirito di iniziativa e quella creatività che sono alla base della crescita economica e sociale. Vi svelo il segreto di Pulcinella. Le regole che dispongono la raccolta delle firme furono fatte con l'accordo dei grandi partiti al fine di fermare il proliferarsi dei partitini e per anni i partiti che contano non si sono mai pestati i piedi. Lo sanno tutti che le firme vengono raccolte prima dei termini e poi, grazie all'organizzazione dei grandi partiti, vengono autenticate e consegnate agli uffici elettorali entro i tempi previsti. Questa volta però qualcosa è andato storto, qualcuno ha fatto saltare il tavolo. I radicali non sono riusciti a raccogliere le firme necessarie perché il PD non li ha supportati e prima hanno fatto lo sciopero della fame, quindi contro il PD, e poi al dunque hanno mirato più in alto per far saltare il tavolo. Hanno colpito il governo. Certo, ciò che hanno combinato i delegati del PDL è fantozziano, ma l'obiettivo era quello di spostarle le elezioni, oppure ottenere un provvedimento governativo che riaprisse i termini, si vedano le dichiarazioni di Pannella. È andata male ai radicali e andrà male anche al PD. Il governo ha puntato ad un decreto interpretativo che si addice solo alla situazione specifica che hanno determinato i delegati del PDL. Quindi i signori radicali rimarranno fuori dalle altre regioni in cui comunque non sono riusciti a presentare le firme necessarie. Finale della favola. Il PD continua a non esprimere un dirigente come si deve alla guida di una regione come quella laziale. Il PDL continuerà per la sua strada ancora più nelle mani di Berlusconi e Fini sarà definitivamente messo ai margini e i radicali non faranno il pienone che si aspettavano. Lettera firmata. Ma che bella campagna elettorale. Mi aspettavo costruttivi dibattiti, confronti educati, sfide corrette. Mi aspettavo di poter apprezzare programmi, nuovi progetti, di vedere le speranze diventare realtà, di sentirmi crescere l'entusiasmo e il desiderio di dire «Sì, ci sono anch'io ad appoggiarvi, a crederci, a sostenervi». Mi aspettavo che dopo tutto quel parlare d'amore rimanesse almeno un po' di buon senso, ma vedo solo combattere la guerra dei roses. Ma quanta pazienza è chiesta ai cittadini. È forse accettabile che gli italiani debbano scegliere di votare sempre il meno peggio e non il meglio di quanto possa offrire la scena politica? Come chiamare quegli sprovveduti che non conoscono neppure le regole da rispettare e che mettono in discussione la possibilità di poter votare? Non so a Roma, ma da noi a Milano gli si darebbe, a ragione, scusate l'espressione, dei pirla. È l'opposizione che vorrebbe sfruttare l'errore di qualcuno per aspirare ad una vittoria non vinta, ma conquistata sulla squalificazione dell'avversario? Dei perdenti vincenti, senza applausi, senza sforzo, senza merito, senza confronto, quelli che godono delle disgrazie altrui. Ma ormai la frittata è fatta. Anche se la lista del PDL a Roma, dopo corsi e ricorsi, venisse riammessa e la candidata Polverini dovesse anche spuntarla, la sua vittoria sarebbe già delegittimata, perché passerebbe per una usurpatrice, vincitrice contro le regole, le leggi. Sembrerebbe un'imposizione di questa dittatura berlusconiana e sarebbe fatta a pezzettini prima ancora di farla lavorare. Tutti usciranno perdenti da questa bagarre, vincitori e vinti. Sarà una considerazione troppo superficiale e azzardata, ma il caso vuole che nell'unica regione in cui sono o erano due donne a confrontarsi, tutto rischia di andare a catafascio. Forse al potere, maschio per tradizione, non piace che due donne possano sfidarsi, emarginando la figura dell'uomo. Chissà a quanti non piacciono queste due candidature. Chissà non si stia facendo di tutto per mandare a monte la partita intera. Giulia. Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad uno scempio del concetto più sacro in democrazia, che è il rispetto di una legge che deve essere uguale per tutti. Sappiamo del pasticcio formale nella presentazione delle liste PDL nel Lazio e in Lombardia. Sappiamo della firma di un decreto interpretativo a salvaguardia del diritto attivo e passivo del voto, esercizio fondamentale della democrazia stessa. Ma sappiamo anche che in tante altre situazioni di carattere pubblico e privato, il non rispetto formale delle norme e regolamenti in vigore a trattazione di dette situazioni sono elementi ostativi e insormontabili. Gare d'appalto, concorsi pubblici, ricorsi alla stessa magistratura e perfino nel nostro tanto adorato sport nazionale, dove se una squadra non si presenta entro mezz'ora dall'inizio di una gara, viene data perdente a tavolino. Ma allora, dove sta la salvaguardia a tutela dei diritti di tutti? Le migliaia di tifosi che vanno allo stadio per vedere una partita che non viene disputata per un eventuale ritardo di una squadra, non sono forse da tutelare? Il concorrente ad un concorso che cerca un posto di lavoro per sé e la sua famiglia non rappresenta un diritto da tutelare? Già, mi si dirà che anche il diritto al voto attivo è da tutelare, ma questo diritto non è stato esercitato proprio dal candidato ed il suo apparato, non rispettando i requisiti formali. Quindi, perché scaricare questa responsabilità sull'elettorato passivo? Lettera firmata. Ho sentito la lettera di quell'ascoltatore che invocava il ritorno alla lira subito, elencando una serie di motivi, a mio avviso, condivisibili. Quello che invece non condivido è il subito. Questa crisi è entrata in Italia come un treno in corsa, colpendo in pieno le nostre manifatture e poi di rimbalzo altri italiani. Sono questi italiani colpiti di rimbalzo o di striscio che impediscono quella scelta immediata. Per avere un maggior consenso per un ritorno alla lira italiana del popolo italiano, è necessario che questa crisi investa anche altri strati della popolazione, non solo le manifatture. Questo avverrà presto, ma non subito. Il debito pubblico non potrà mai rientrare. Nessun presidente del Consiglio si giocherà il consenso in cambio di una virtuosa gestione. Nessuno lo ammetterà mai, finché non ci saremo dentro. Alcune categorie saranno protette fino alla fine, dato che sono indispensabili per costituire il nocciolo duro del consenso al governo di turno. Alle manifatture non rimane altro che resistere in vari modi. C'è chi lo farà riducendo l'attività al minimo, chi coprirà le macchine con un telo, le metterà in un deposito e si ritirerà a fare il cameriere. Tutti in attesa che le categorie protette, i politici, gli insipienti e gli ignavi, aprano gli occhi e si accorgano che non si può fare un'unità monetaria senza una forte unità politica, che non si possono combattere i monopoli in casa e poi lasciare che entrino dall'estremo oriente. Lettera firmata. Sono piuttosto allibito da una regola che punisce, ha ragione, chi bestemmia in campo. Ma come si fa con tutti gli stranieri che magari bestemmiano il loro dio in camerunense, portoghese o rumeno? La federazione metterà a sorvegliare un team di persone che parlano tutte le lingue del campionato? Una legge giusta, ma poco applicabile, credo. Sarebbe più facile punire i gesti palesi che i giocatori fanno in campo. Cesare. Erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.